E bentornati a tutti qui All Time Rock and Roll su Radio F, sono le 19.04, leggermente in ritardo, però va bene, dai. Leggermente. È arrivato, attenzione, adesso, quindi posso annunciare la formazione ufficiale, quindi io sono il padre, accanto a me il nanno. Di là il nostro carissimo Luke. Di là ecco. Dove? Sinistra, di là, vabbè, alla mia sinistra. Sono qui. Accanto a me i due tecnici, il Masa. Sono qua. E l'ultimo arrivato, il Bindo. Sono me. Sono là. Iniziamo subito con questa puntata. Purtroppo oggi è incredibile. Non ci sono. Purtroppo, via. Vabbè, non ci sono. Vabbè, non ci sono. È incredibile il tempismo che ha quel farabutto del Bindi. Bellissimo. Sei una monella. Monella. Oh no, monella perché? Padre, caldo oggi, eh? Sì, c'è mezze maniche. 80.000 gradi. 80.000 gradi ci sono. La palestra. La palestra. Sai come ancora sono bello. E braccio, braccio. Grazie, e bello. Dicevamo. Purtroppo oggi non ci. Perché mi stai dando i morsi? Perché sei buono. Perché sei molto buono. Vabbè, grazie. Prego. E purtroppo oggi, vabbè, purtroppo oggi non ci sono compleanni. Non ci sono. Oggi no. Quindi parliamo... Non è nato nessuno al mondo. No, è nato sicuramente qualcuno, però ma noi non nessuno ce ne di importante, diciamo, nel rock. Nel panorama rockettaro. Quindi partiamo subito con il 1969, quindi con la storia del 1969. E di cosa parliamo? Beh, dobbiamo. Di cosa parliamo? Che lo spot, Masa, sei un mafioso. Masa, ma sei venuto fuori un po' mafioso? Ma io sono così. La risposta è stata: ma io sono così. Come mamma te l'aveva fatto. Dai. Comunque, parlando del 1969. Chiaramente dobbiamo parlare anche di Woodstock, cioè il festival di Woodstock che si svolse a Bethel, una piccola città rurale nello stato di New York, dal 15 agosto al 18 agosto. Neanche tanto, 3 giorni, io pensavo fosse durava pochino. 3 anni. Fai 3 giorni lì lo... sono 3 anni di vita, in meno, No, vabbè, vabbè, buona musica. Buona. Comunque, musica ottima. Appunto, anche altre ottime cose, immagino. No, io pensavo tipo durato 3 mesi. 3 anni. Sì, una cosa del genere, una cosa colossale, no? Vero, Bindo? Sempre sul pezzo lui. E Forza Azzurri. E Forza Azzurri, sempre. Oh, vedi? Bravo. Comunque, chi si è svolto? Ma questi aperitivi ve l'ha offerti o no? E allora Forza Azzurri di che? Vabbè. Ma infatti hanno calato, Secondo me c'è il tranello, Sì. Ah, dite così perché vi offro da bere, ve l'ha offerto. No. Allora. Da qui che finisce il carnevale ancora. Io mi fido. Forza Popolo! Grande Masa, lo sapevo che cambiava. Comunque, appunto svolta dal 15 agosto al 18 agosto del 1969. All'apice della diffusione della cultura hippie che voleva riunire i 3 Days of Peace and Music, prese il nome dalla città di Woodstock nella contea di Ulster, conosciuta per le sue attività artistiche, e fu l'ultima grande manifestazione del movimento che da allora si diffuse peraltro sempre più fuori dagli Stati Uniti, dove era nato pur senza la questione e l'originalità che avevano permesso negli anni 60 eventi come il Monterey Pop Festival, la Summer of Love a San Francisco e appunto anche il Festival di Woodstock. Quindi con questa, diciamo, piccola appendice, possiamo chiamarla così. E di cosa parliamo? Passo la palla al mio carissimo collega Valerio che andrà a introdurre la prima canzone di oggi, che è il 69, che è Crimson King. Bello. Oh, dove l'hai messo sto microfono? È troppo alto, padre. Fammelo abbassare un attimino. Me lo abbassi, per favore, grazie. Non siamo neanche in diretta. No, che dici? Vero, Vito? Crimson King. Più che una canzone, un breve poema dove ogni verso cattura un mondo attraverso una metafora o una similitudine. Che fai con questo relè in mano? Non lo vedi, è un relè. Re Leone. A volte... cruda e diretta, come per esempio Innocence Raped with Napalm Fire, innocenti violentati con il fuoco del napalm, con chiaro riferimento alla guerra del Vietnam. altre volte più sfumata e visionaria. Poets starving children bleed. I poeti muoiono di fame, i bambini sanguinano. In un concerto del 14 dicembre del 1969, Robert Fripp ha spiegato che i 21st Century Schizoid Man era dedicato a una personalità politica conosciuta e amata, ovvero Spyro Agnew. Spyro Agnew era il 50° governatore. Sembra personaggio di un fumetto, non lo so. No, di un videogame. Di un videogame. L'antagonista di Spider-Man. Il cugino cattivo di Spider-Man. Invece no, era il 55° governatore del Maryland. Ed è predecessore stato anche di Sir Daniel Fortescue. Sei sicuro? Non direi. E aggiungo, oh mio Dio. E 39° vicepresidente degli Stati Uniti d'America, nonché primo uomo di origine greca a ricoprire proprio quel ruolo. Nel 73 era ancora molto conosciuto, ma meno amato. Fu infatti giudicato colpevole di evasione fiscale e corruzione e costretto a dimettersi. Bravo. Primo e unico vicepresidente della storia a farlo per queste ragioni. Green. Sì, la metti, la metti, mettila, dai, mettila, va bene, la dai. I King Crimson con la loro 21st Century Schizoid Man. Allora, Secondo, allora, dimmi, ho appena scoperto una cosa interessante. Oh, dicela. Che vi elencherò. Secondo un recente studio di... Tutti sappiamo che naturalmente ogni buon rocker deve almeno scolarsi 7-8 birre al giorno. No, sto scherzando. Lo dice il dottore. Però comunque no, a parte scherzi, uno studio recente ha dimostrato che ci sono ben 10 punti per cui bere birra fa bene. Ah, sì? Ce li elenchi ora? Naturalmente in quantità esagerata, volevo dire moderata. Moderata. Chiaramente, sempre in quantità moderata. Sono le ossa più forti, un cuore più sano, i reni più sani, pensate voi, cioè addirittura, dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe essere il contrario. Un cervello più attivo, riduzione del rischio di cancro, aumento del livello di vitamine, protezione contro problemi cerebrovascolari, minore rischio di diabete, pressione arteriosa bassa e vita più lunga. Quindi praticamente noi siamo immortali. Sì, okay. Esattamente. Noi bene a sapersi. Dovrei correggere, si può fare un commento? Piccolo excursus. No, perché dovrei rispondere al dottore che ha scritto tutto questo. Al dottore, non è un dottore, era un sito internet che ha fatto questa ricerca. Ah, è un muratore. Sì, è sosia del Mazzeo. Proprietario di una birreria, scommetto. Ci sta. No, perché sapete, ragazzi, la birra, ascoltato, secondo me. Padrone della sì. Comunque continuiamo. Vero Pindo? Continuiamo con George Harrison, i Beatles e la loro "He Comes the Sun". Sì, sì. Du. Capolavoro, appunto, del buon vecchio George. E fra l'altro rendiamo omaggio a George Harrison doppiamente, visto che è stata una delle rarissime canzoni scritte da lui per i Beatles. Gliel'hanno gliel'hanno data, no? Vabbè, dai, ora. Però è un gran bel pezzo. Per l'album dei Beatles Abbey Road, uscito nel 69, fu davvero difficile per George Harrison. Era stato infatti arrestato per possesso di marijuana, operato di tonsille, ma soprattutto era sempre più disgustato, dalle interminabili riunioni d'affari che rubavano sempre più tempo. Vedi a non bere birra. Infatti. Poi uno non pasta, infatti mi ci vorrebbe un bel gotto di birra. Sì, essendo vicino a Ubaldo, quasi ne approfitterei volentieri. Pensavo essendo vicino al padre. se mi ci vai a fanzalto. Okay. No, basta aprire la finestra. L'atmosfera alla Apple era diventata quasi irrespirabile per colpa di diatribe interne e di un manager che cercavano di spartirsi le aree di competenze. Una mattina George Harrison si rese conto che la Apple stava diventando come una scuola. Quando ti senti impotente e ci sono altre persone che vogliono entrare nella tua testa e decidere per te. Così decise di marinare la lezione, preferendo un viaggio nella campagna inglese nel Surrey, dove aveva casa Eric Clapton. Lì nel giardino di casa Clapton fece come un bimbo che aveva mancato al suo dovere. Con una delle chitarre acustiche a tracolla scrisse di getto "Here Comes the Sun" in testa mentre componeva. Harrison aveva tre elementi: il gelo dell'inverno inglese, così intenso che quando arriva il sole della primavera è una gioia per tutti; il sole della spensieratezza, perché a volte basta poco per rendere felice un Beatle che apparentemente, ma solo apparentemente, ha tutto; e poi "Badge", una canzone scritta a quattro mani da Harrison e Clapton e incisa da Eric con i Cream, con un riff arpeggiato di chitarra che ricorda molto da vicino quello di "He Comes the Sun". Senti. "He comes the sun, he comes the sun, I say it's alright. All right. Ed erano i Beatles con Here Comes the Sun qui su Radio F. Grande Bindi, ragazzi, guarda lei come smanetta. Smanettone, monella. Sei una monella. Smanettone. No, non lo so, no, non lo so. Vabbè, che se va, si va in ferie? Belline tutte queste stelline che no, e non sono stelline, la stampa della maglietta che si è sta sbriciolando sì, ma inesorabilmente. Tra altre cose l'hai presa anche tu e il Bindi. Sì, ma no, a noi non ce lo fa. A voi no? No. Che la fallata l'ho presa io. Sì. Cioè, che tocchi dietro? Se, se la lavi a 95 gradi magari. Non è ogni volta niente. Solo a 90, padre. Come? Sei in piedi mentre la lavi. Sì, esatto. Andiamo, andiamo avanti se ci riusciamo. Andiamo avanti con Psychedelic Shack, un singolo del 1969, brano dei Temptation e prodotto da Norman Whitfield. Questo singolo ha caratteristiche tentazioni e Whitfield sta continuando la sua immersione nella psichedelia con la voce multi-lead, chitarre, hard rock, sintetizzatore ed effetti sonori. Masa, tutto ok? Sì, sì, va. Ah, ok. Insomma, una tecnica che sarebbe diventata un must nella musica hip hop. Una tecnica che sarebbe diventata un must nella musica hip hop nel prossimo decennio, che effettivamente è vero. Grazie. Il titolo e il testo. Padre, noi ti crediamo. A posto, a posto. Chi ti acconsente? Vero, Bindo? Non ce la facciamo. Prego, prego, faccio. Faccio. Lei? Sì. Allora, il titolo e il testo della canzone si riferiscono a un tipo di discoteca hippie popolare a fine degli anni 60. Il tastierista Earl Van Dyck ricorda Psychedelic Shack, come una delle sue sessioni di registrazione preferita. La versione estesa del brano con la jam session completa è stato un inedito fino a quando un nuovo mix del disco di 6 minuti è stato fatto nel 2003 per l'album Psychedelic Anima. Psychedelic Shake inoltre è la title track dell'album scritto nel marzo del 1969, appunto. La canzone raggiunse la posizione numero 7 nelle classifiche pop degli Stati Uniti e la seconda posizione nella classifica R&B sempre negli Stati Uniti. E adesso Psychedelic Shake. Hold it. Listen. Temptation con Psychedelic Shack. Continuiamo la storia del 69. Allora, nel 69 c'è la guerra in Vietnam. John Lennon e Yoko Ono scelsero un modo piuttosto curioso di manifestare il loro pacifismo. Per una settimana rimasero in un letto dell'Amsterdam Hilton Hotel, stanza 702, quella dove avevano trascorso la loro luna di miele. Era dunque sì, va bene. E comunque poteva unirsi a loro dalle 9 del mattino alle 9 della sera chiunque. John e Yoko avrebbero cantato, parlato, letto, discusso, ma non fatto l'amore, anche se tutti si aspettavano proprio quello, dopo averli visti nudi sulla copertina di Two Virgins. Ad un reporter che gli chiedeva il senso di quello che stavano facendo, John rispose: "All we are saying is give peace a chance." Quella frase gli piacque e gli rimase in testa fin quando decise di scriverci sopra una canzone. Più che una canzone, in realtà, un mantra indiano dove l'interazione del ritmo e delle parole dovrebbe condurre a una comunione con un essere superiore. Il brano fu registrato in Canada e non in America, dove John voleva organizzare un altro bed-in, ma gli era stato negato visto l'entrata. Gli era stata negata l'entrata dopo i suoi problemi con la droga nell'anno precedente. Quindi niente New York, e sia Montreal, stanza 1742 del Queen Elizabeth Hotel. La data è il primo giugno del 1969. Quando Lennon vide in televisione i manifestanti intonare la sua canzone a Washington, il 15, che è successo? No, niente. Ah. Il 15 ottobre del 69 disse che quello era il miglior momento della sua vita. Il folk singer Pete Seeger guidava in marcia e chiedeva: "Stai ascoltando Nixon? Stai ascoltando Agnew?" Quello di prima. Sì. Quello di cosa? Quello di prima, Patru. Agnew con chi? E dopo Agnew. Ogni domanda la folla intonava: "All we are saying is give peace a chance." Ma chi? We'll be right back. Capito se si è capito il messaggio? Non ho capito se no. Si è capito. Si è capito il messaggio? No, no, io non ho capito. Chi ha capito se ha capito il messaggio? Che ha capito? Che capisca. Capire. Altrimenti ce lo faccia capire chi ha capito. Che deve scrivere se ha capito. Vero Masa? Sulla nostra pagina Facebook. Sulla nostra pagina Facebook ci scrive. Che Bindola, hai capito il messaggio? Scrivete cosa avete capito di quello di Valerio, che non so cosa abbia detto. Non ho che capito. Non abbiamo capito. Ma lui ha capito cosa ha detto. Lo capiremo più avanti. Però vabbè. Andiamo avanti con il penultimo, giusto? La penultima canzone. Se 1969, lo dici, grazie ragazzi. Mi date troppa fiducia, mi date. Good Times, Bad Times, un singolo pubblicato dai Led Zeppelin nel 1969. La canzone è tratta dall'album di debutto della band Led Zeppelin, dal quale è anche il brano di apertura. Il chitarrista Jimmy Page, uno così, sì, a caso, ha usato per questa canzone un amplificatore Leslie per ottenere l'effetto particolare Nielsen, che caratterizza, grazie Bindo, il riff principale. Eric Clapton fa uso dello stesso effetto nella canzone Badge di Cream. L'hai detto tante cose? I Cream sono sempre in mezzo, eh? Sì. Vero? Sì. Bravo. No, no, grazie. Prego. Pinto, li conosci Cream? Ma sì. Page ha inoltre piazzato vari microfoni nello studio per registrare anche i suoni ambientali durante l'incisione. Quindi quello che sta stavo dicendo, che tipo di suono? Quello che stappa la bottiglia, quello che scatta il panino con la mortazza. Questo pezzo è stato suonato raramente nelle esibizioni live. In alcuni concerti del 1969 fu suonato come introduzione per Communication Breakdown. Compare anche nel medley di Communication Breakdown, suonato a Los Angeles il 4 settembre del 1970. E no, è anche una medley di What a Lotta Love del 1971. La canzone è stata scelta dalla band come apertura della scaletta al concerto meglio noto come Celebration Day, tenuto il 10 dicembre del 2007 alla O2 Arena di Londra. È anche colonna sonora di un recentissimo film. Quale? Non lo posso dire perché pubblicizza. Ok. Però sì, è veramente un grande, grande film americano basato sugli anni 50, 60. Storie di soldi, sesso e rock and roll. Roll. Via! Good times, bad times, you know I have my share. When my woman left home for a brown eyed man, I still don't seem to care. It only took a couple of days till she was rid of me. She swore that she would be all mine and love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh. Good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a brown man, but I still don't seem to care. We'll be right back. Led Zeppelin e la loro Good Times, Bad Times. Continuiamo con l'ultima, ma non per importanza, canzone sul 1970 di questa no, prima 69. Che ho detto io? 69. No, no, no, no, no, no, no. Avete detto, avete detto voi, ragazzi, avete detto io 70. Ha imparato a camuffare la voce il maschio degli uomini. La fa uguale, ventriloquo. Tipo, state sentite, eh? Maza, di qualcosa? E allora, ragazzi, ma è allucinante. È uguale. Sembra Luke. Monella. Monella. Spero che tu non stipuli un contratto telefonico a mio nome, Maza. No, no, no. Ah, è vero che ti fanno fare la firma con la voce. Basta che dici sì e tam, parte, no, parte subito il mutuo. Non si può dire a pressione. Sì, si è capito il nesso. Comunque, vabbè, è difficile da credere, ma anche Bob Dylan si è visto rifiutare una canzone e per ben due volte. Ancora più difficile da credere se la canzone in questione è Lay Lady Lay, da Nashville Skyline, 1969. Il primo rifiuto fu da parte del regista e dei direttori del suono di un uomo da marciapiede, il film per cui era stato composto il brano. E dire che si trattava adattava perfettamente alla storia del gigolo John Voight, visto che già il primo verso diceva "Sdraiati, signora, sdraiati, sdraiati sul mio grande letto di ottone". Fu preferita a "Everybody's Talking" di Fred Neil, cantata da Nilsson, e la scelta non fu comunque sbagliata perché la canzone vinse l'Oscar. Abbiamo messo un paio di settimane fa. Sì, bravo. Mazzeo, mi dici che no, cavolo? No, ho vinto, che mi dà noia. No, non fa niente. Mi dà noia. Lui non fa il tecnico, fa il disturbatore. Fa. Te sei come il twerkatore delle, sì, delle Iene. Ti denuncio. Ti denunzio. Ma forte. Faccio la denuncia penale forte. Più assurdo e grottesco il secondo rifiuto. Dopo un concerto al Bottom Line di New York, Bob Dylan fece visita agli Everly Brothers nei loro camerini. Quando gli chiesero se avesse una canzone adatta a loro, lui rispose di sì. Prese la chitarra e cantò Lay Lady Lay. La cantò ovviamente la Dylan, quindi in maniera non del tutto comprensibile. Gli Everly Brothers fraintesero proprio il primo verso, Lay Lady Lay Lay, across my big brass bed, e pensarono che Dylan avesse detto lei across my big brass breast, ovvero sdraiati signora tra i miei grossi seni sodi. Invece, per la felicità di Davide, invece che sul mio grande letto d'ottone. Convinti che poi anche letto d'ottone, oh, lui ce l'aveva d'ottone. Comodo. Parsimonioso. Convinti si trattasse di una canzone d'amore lesbico, rifiutarono. Quando uscì il singolo cantato da Dylan, si resero conto dell'errore e ovviamente si mangiarono le mani. Lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lay, lay, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Bob Dylan con Lay Lady Lay. Abbiamo finito la storia del 69 per oggi, sì, perché per ancora oggi diverse puntate mancano. Ancora. E allora Patro, che facciamo? Le citazioni. Le citazioni. E non e citazioni. Citazioni più belle, citazioni famose, più importanti dei personaggi della storia del rock. Bellissime, insomma, appunto. Di chi è la prima? La prima è la mia, sì. E di chi è? Qui in realtà non c'è scritto, vabbè, ma penso che sia il gruppo insieme. Il gruppo insieme, no, sì. È un testo di una canzone. È un testo di una canzone che recita, grazie, più o meno in questo modo: e dopo un giorno ti accorgi che un anno è già passato. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. was only a fantasy. The wall was too high, as you can't see. No matter how he tried, he could not break free. And the world ate into his brain. Questa era AU, la bellissima AU dei Pink Floyd, versione, attenzione Patrucci, attenzione, versione live, tratta da, sì, dal loro tour Pulse del 1994. Ma non c'è scritto 96 94 95 91 94 83 94, il film è del 95. Incudine. Ok. Sasso, carta, forbice, albero. Spock, Lizard. 84 53 62. Le estrazioni del lotto. Ruota di Palermo. O se vincete mi date i soldi. Una persona tranquillissima accanto a noi. Tranquillissimo, bene. Seconda citazione. Bono Vox. Bono lo stesso. Bono Vox. Citazione, frase detta da Bono Vox, che una volta ha detto: come rockstar. Se l'ha detta. Voglia di divertirsi e voglia di cambiare il mondo. Ho la possibilità di fare entrambe le cose. YouTube, Ordinary Love. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Rest on the breeze. Ordinary Love degli Who Chew. Al 3 te do un cazzotto nei denti. Al 3. Che ha fatto al 3 e poi alzato. Ha alzato tutto. Ma ormai lo saprò. Infatti non ho detto niente, sono stato zitto. Zippati la bocca. Allora, ultima e citazione, nonché ultimo brano di oggi. Esatto. Tratta direttamente dal film School of Rock. Bellissimo. Con Jack Black. Lasciati guidare dal suono del rock. School of Rock, direttamente estratta dal film School of Rock. E purtroppo ragazzi, anche oggi siamo giunti alla fine. 19:58, vi dobbiamo salutare. Anche quest'oggi abbiamo parlato della storia del 1969, giusto? Giustissimo. Corretto. Come ricorda il nostro Mazzeo. Sì. ricordatevi tutti di seguirci sulla pagina, esatto, Facebook All Time Rock and Roll Radio F. Come dice Matteo, di cosa parliamo? E ricordatevi di chiederci, qualora voleste, delle dediche, certo, delle, certo, canzoni preferite vostre, certo, che volete riascoltare. Ricordateci di darci dei consigli, ricordateci di darci delle offese. No, quello no, no. Lo no, potete no, fare nella bacheca del Nannotti. No, no, povero. Sono direttamente al telefono 340. No. Vabbè, ma che soprattutto, dai, soprattutto ricordatevi gli appuntamenti di Radio F con All Time Rock and Roll. Ci vediamo la prossima settimana, yep, sempre dalle 19 alle 20. Yes. Stasera ci sarà Sugar Night con Claudio dalle 22 alle, esatto, 23. E domani? E domani Piazza Alta sempre dalle 22 alle 23. E naturalmente domenica il nostro carnevale con, certo, vi aspettiamo ancora con... una volta la Scoriandolata, che è stata, ah, un'altra, la fanno bellissima ancora, sì, perché giustamente un successo va, beh, no, veramente va riproposto. Pazzesca, davvero. Organizzata benissimo. Sì, cioè, davvero... sì, sì, sì, sì, veramente bravi, una bella, bravi, bravi. Una bella cosa. Ah, sì. Quindi ci risentiamo, come ha detto Luke, mercoledì prossimo con le 19 alle 20. E vi aspettiamo anche, perché no, al carnevale di Fogliano. Ciao, ciao a tutti. Ciao.